tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com per le vostre mail notiziario@giordanobruno@gmail.com, per il calendario anticlericale 2022 info@sicilialibertaria.it. Prete, se lo conosci lo eviti. Iniziamo appunto da Sicilia Libertaria di dicembre 2021, 25 novembre, la grande amnesia della Chiesa, scritta dall'anticlericale anonimo Fra Dubbioso. E vediamo, leggiamo qualche breve brano. La diffusa certezza del ruolo stereotipato della donna nella società, tutta casa, letto e chiesa, direbbero Franca Rame e Dario Fo, sono all'origine delle violenze fisiche, psicologiche, economiche che le donne subiscono. Queste culture, concezioni, certezze millenarie propinate dall'organizzazione maschile maschilista per eccellenza, la Chiesa Cattolica. Nelle istituzioni il 95% almeno dei partiti e dei politici sono legati alla Chiesa, se non sua diretta emanazione. Proprio il 30 novembre da questa congrega di chierichetti mascherati è giunto un ennesimo regalo al clero, l'esenzione dalla Tari. E fino a quando la società italiana e le sue istituzioni saranno legate o dipendenti dalla Chiesa Cattolica, la cancrena dei femminicidi, delle violenze sulle donne, della pedopornografia, che vede il clero sempre in primo piano, come anche in questi giorni è accaduto, come accade senza sosta ovunque nel mondo, sarà destinata a continuare. Un 25 novembre con questa grande assente, la Chiesa, è stata un'occasione mancata, un'ostentazione di retorica, una protesta monca. Tutti i centri antiviolenza del mondo non basterebbero ad ospitare tutte le vittime di questa macchina schiacciadonne che è la cultura patriarcale clerico-fascista. Leggiamo brevemente dal piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale di Pierino Marazzani, siamo alla lettera I. Inverosimile congrega fu quella basnada di fideisti che uccise una certa ragazza vergine di nome Seila in nome del Dio unico biblico. Da Kirsch i racconti proibiti della Bibbia garzanti. Iperbolici funambolismi sono quelli dei fideisti quando cercano di spiegare il dolore e la morte che affliggono l'umanità. Ipocrita falsità è quella del cardinal Parolin, che dovrebbe conoscere bene i misfatti clericali ma li nasconde nei suoi scritti, dalla rivista Non Credo. Irreligiosità, la più diffusa fra tutte le grandi religioni della terra. Istituzione reazionaria, lo è la Chiesa Cattolica, per vari motivi tra cui l'aver elaborato un indice dei libri proibiti durato circa 400 anni. Italia Pontificia, è l'attuale democrazia parlamentare italiana promulgata dall'Assemblea Costituente, che approvando il concordato clerico-fascista del 29, nell'articolo 7, si è svenduta allo Stato Pontificio. Passiamo ora ai misfatti clericali. Iniziamo appunto dal clerico-fascismo. Si ricorda sul giorno del 24 dicembre la vicenda di Umberto Ceva, morto suicidio il giorno di Natale in carcere. Ricordate il cospiratore antifascista, nato nel 1900 e morto nel 1930. E ricordiamo le responsabilità evidenti della Chiesa in questo suicidio, in quanto nel 29, pur sapendo la natura omicida e stragista della Chiesa, cioè del fascismo, la Chiesa aveva firmato il concordato. Da giallo del 29 dicembre torna di nuovo a parlare di Emanuela Orlandi. Ha detto: la Chiesa temeva di uscirne screditata. Dirò chi mi parlò nella sede giusta. Un giudice. Il Vaticano si offrì di aiutarmi a trovare Emanuela, ma poi non lo fece. E qui c'è un ampio articolo. Monsignor Paglia si confronti sulle torture inflitte a Mario. Si parla delle tematiche di fine vita. articolo di Paolo Flores d'Arcais da Fatto Quotidiano del 21 dicembre. Ha 43 anni e tetraplegico immobilizzato da 10 anni, gli è impedita la morte ancora. Professore fanatico da 27 giorni in sciopero della fame nel Varesotto. Pagina 35 della Prealpina del 22 dicembre, esempio di fanatismo clericale Novax. Con ieri, arrivato a 27 giorni di sciopero della fame, una protesta clamorosa, questa di questo insegnante di religione di Legnano, che esprime il suo dissenso a tutte le norme contro il Covid. Cardinal Becciu e Cardinal Pell, da lei parole offensive. Dal Corriere della Sera del 23 dicembre. I preti si diffamano fra di loro. Dal Quotidiano Nazionale del 18 dicembre. Lite sul crocifisso. Il Consiglio dice no ai simboli religiosi. Milano. Crocifisso sì o no in uno spazio pubblico? No. La mozione approvata dal Consiglio dei Municipi 8 prova a spegnere la polemica sui simboli religiosi. L'aula si spacca. 19 consiglieri del centro-sinistra hanno votato sì, 10 consiglieri del centro-destra no, per affermare appunto il principio della laicità. Il Consiglio quindi dice no ai simboli religiosi, cioè l'articolo non è del tutto chiaro, però sembra proprio che i crocifissi sono stati respinti. Dal Quotidiano Nazionale del 27 dicembre, scoperta la sinagoga di Maria Maddalena, questa ex prostituta che andava dietro Gesù Cristo. E l'articolo riconferma la teoria che diciamo sempre, che se Gesù è esistito era un profeta nazionalista. Infatti questa Magdala, no, era la base degli zeloti che predicavano la ribellione armata contro i romani. Quindi era una sede di importanza religiosa e politica. Gli apostoli avevano forte simpatia per la causa degli zeloti, la prostituta redenta, fatta in molti film. Fanatismo religioso, brucia il pallone, meglio così, insomma non ci crederete, ma sulla Prealpina del 27 dicembre risulta che a Tradate i cattolici fanatici bruciano un pallone di in chiesa, un pallone di ferro circondato da carta. Boh, misteri del clericalismo. Tradizione vuole che il celebrante lo incendi in chiesa e dal lavoro dal fuoco nascono, secondo la credenza popolare, buoni o cattivi pregiati. Il fuoco ha bruciato tutto. Boh, misteri del clericalismo. Disgrazie clericali. 3 dicembre 2021, svuota il conto corrente del prete, perpetua rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace. Una volta tanto non sono i preti a derubare i soldi agli anziani, ma le perpetue a rubare i soldi a questo prete novantenne. Gli hanno fregato un fracco di soldi. Anticlericalismo popolare, fuggono con la cassaforte proprio durante la messa di Natale, a Rò, da il Quotidiano Nazionale del 29 dicembre. 10.000 euro all'interno della casa parrocchiare e una corona d'oro. Vandali devastano il presepe in piazza a Carnago, nel Varesotto. Una statuina finisce sull'albero. Sospetti su due ragazze di 14 anni viste nella capanna. E poi un sospetto caso di suicidio segnalato dalle Figaro in Francia del 9 febbraio 2021, che mi era sfuggito. La morte accidentale di un giovane sacerdote di Alencon suscita commozione. Padre Riffi è stato trovato morto, vittima di un avvelenamento da monossido di carbonio, mentre svolgeva lavori nella cantina della casa parrocchiale. La cosa mi sembra molto inverosimile, che uno si mette il prete, si metta a fare lavori senza chiamare il sacrestano, senza chiamare qualcuno che lo aiuti in questi lavori nella cantina della canonica. In realtà il mio sospetto è che si è avvelenato con il gas, cosa già successa tante volte per il solito problema dell'integrazione affettiva del sacerdote, che è molto molto carente. Comunque nessuna lettera, nessun testimone, quindi noi anticlericali siamo autorizzati a ritenere possibile il suicidio del prete. Ricordiamo il mio libro Il suicidio nella storia della Chiesa, delle edizioni La Fiaccola di Ragusa. SicilialLibertaria.it. Bene, saluti a tutti e alla prossima puntata.